Terzo anello ad alta voce. Il processo di Franz Kafka. Ad un tratto K non sopportò più la vista del commerciante. Portalo dunque a letto, gridò a Leni, che parve non capire. Quanto a sé, voleva però andare dall'avvocato e con l'esonero liberarsi non solo dell'avvocato, ma anche di Leni e del commerciante. Ma ancora prima che fosse sulla soglia, il commerciante lo chiamò sottovoce. Signor procuratore! K si voltò con la faccia scura. Ha dimenticato la sua promessa, disse il commerciante, e si protese dalla seggiola con aria supplichevole verso K. Voleva dirmi ancora un segreto. È vero, disse K, sfiorando con uno sguardo anche Leni, che lo fissava con attenzione. Ascolti bene. D'altra parte non è quasi più un segreto. Ora vado dall'avvocato per esonerarlo. Lo esonera? Esclamò il commerciante saltando dalla seggiola e girando per la cucina con le braccia alzate. Continuava a ripetere: esonera l'avvocato. Leni fece per precipitarsi su K, ma il commerciante le tagliò la strada e lei lo colpì con i pugni. Quindi, ancora con i pugni stretti, corse dietro a K, che però aveva un grande vantaggio. Quando Leni lo raggiunse, lui era già entrato nella camera dell'avvocato. Aveva quasi chiuso la porta dietro di sé, ma Leni, tenendo aperta con un piede la porta, lo prese per un braccio e fece per tirarlo indietro. K le strinse però il polso con tanta forza che quella, con un sospiro, dovette lasciarlo. Non osò subito entrare nella camera, ma K chiuse la porta a chiave. «L'aspetto già da molto», disse l'avvocato dal letto. Posò sul comodino un documento che stava leggendo alla luce di una candela e inforcò gli occhiali per fissare attento K. «Si sieda», disse. «Visto che lo vuole», disse K, avvicinò una seggiola al comodino e sedette. «Mi pare che abbia chiuso la porta a chiave», disse l'avvocato. «Sì», disse K, «per via di Leni». Non aveva intenzione di risparmiare nessuno, ma l'avvocato chiese: «È stata di nuovo importuna?» «Importuna?» chiese K. «Sì», disse l'avvocato ridendo. Ebbe un accesso di tosse e quando questo gli fu passato ricominciò a ridere. «Si sarà pure accorto della sua importunità», chiese picchiando sulla mano di K, che questi distratto aveva appoggiato sul comodino e che ora si affrettò a ritirare. «Non sembra dare alla cosa molta importanza», disse l'avvocato, visto che K taceva. «Tanto meglio, altrimenti mi sarei forse dovuto scusare con lei. È una stranezza di Leni che d'altra parte io le ho perdonato da un pezzo e di cui neppure parlerei se lei adesso non avesse chiuso la porta. Tale stranezza, lei sarebbe l'ultima persona a cui dovrei spiegarla, ma mi guarda così sconcertato che lo faccio. Questa stranezza consiste nel fatto che Leni trova belli la maggior parte degli accusati. Si attacca a tutti, ama tutti e sembra del resto essere anche amata da tutti. A volte, quando glielo permetto, me ne parla per divertirmi. La cosa nel complesso non mi stupisce, come sembra stupire lei. Ad avere l'occhio esercitato, si nota che gli imputati sono spesso veramente belli. Si tratta in ogni modo di un fenomeno strano, quasi da scienza naturale. Naturalmente non è che a seguito dell'accusa subentri nell'aspetto un cambiamento chiaro, definibile con precisione. Le cose non vanno, si capisce, come in altre cause. I più continuano la loro solita vita e se hanno un buon avvocato che si occupa di loro, il processo non li ostacola in nulla. Ciò nonostante, chi ha esperienza al riguardo è in grado di riconoscere nella massa gli imputati uno per uno. Da che cosa? Lei può chiedere. La mia risposta non la pagherà. Gli imputati, vede, sono i più belli. A farli belli non può essere la colpa, perché, così almeno devo dire da avvocato, non tutti sono colpevoli, e neppure può essere la giusta punizione a renderli già belli, perché non tutti vengono puniti. La cosa può dunque dipendere soltanto dal procedimento loro intentato, che in un certo qual modo fa presa su di loro. D'altra parte, tra i belli ce ne sono anche di particolarmente belli. Ma belli sono tutti. Persino Bloch, quel misero verme. Quando l'avvocato ebbe finito, K si era ripreso completamente. Aveva persino annuito con calore alle ultime parole e confermato così a se stesso la sua vecchia opinione che l'avvocato, anche questa volta, come sempre, cercava di distrarlo con notizie generiche che non riguardavano la causa e di distoglierlo dal problema principale, quello che aveva effettivamente fatto per la causa di K. L'avvocato notò subito che questa volta K gli opponeva più resistenza del solito. Infatti tacque per dare a K la possibilità di parlare e, visto che K rimaneva muto, chiese: «Oggi è venuto da me con un'intenzione precisa?» «Sì», disse K, e con la mano schermò un poco la candela per vedere meglio l'avvocato. «Volevo dirle che con oggi le revoco il mio mandato». «La capisco bene?» chiese l'avvocato, sollevandosi sul letto e appoggiandosi con una mano ai cuscini. «Penso di sì», disse K, che sedeva tutto teso come in agguato. «Beh, possiamo discutere anche di questo progetto», disse l'avvocato dopo un po'. «Non è più un progetto», disse K. «Può darsi», disse l'avvocato, «ma non precipitiamo nulla». Usò il plurale come se non avesse l'intenzione di lasciar libero K e volesse rimanere, se non poteva essere il suo rappresentante, almeno il suo consigliere. «Non c'è precipitazione», disse K alzandosi adagio e mettendosi dietro la seggiola. «Ho riflettuto a lungo, forse, anzi, troppo. La decisione è definitiva». «Allora mi consenta solo ancora qualche parola», disse l'avvocato sollevando il piumino e sedendo sull'orlo del letto. Le sue gambe nude, coperte di peli bianchi, tremavano dal freddo. Pregò K di porgergli una coperta dal canapè. K prese la coperta e disse: «Si espone proprio inutilmente a un raffreddore». «Il motivo ne vale la pena», disse l'avvocato, mentre si avvolgeva il busto con il piumino e poi si fasciava le gambe con la coperta. «Suo zio è mio amico e con l'andare del tempo mi sono affezionato anche a lei. Lo confesso apertamente. Non ho ragione di vergognarmene». Questi discorsi commoventi del vecchio riuscirono molto sgraditi a K, perché lo costringevano ad una spiegazione particolareggiata che avrebbe evitato volentieri. E inoltre lo sconcertavano, come confessava apertamente a se stesso, anche se non avrebbero mai potuto farlo recedere dalla sua decisione. «La ringrazio per i suoi sentimenti di amicizia», disse. «E le do anche atto che lei si è occupato della mia causa per quanto poteva e nel modo che le sembrava per me vantaggioso. Negli ultimi tempi mi sono tuttavia convinto che ciò non è sufficiente. Naturalmente non cercherò mai di imporre il mio punto di vista a un uomo tanto più esperto e più anziano di me. Se qualche volta ho cercato involontariamente di farlo, le chiedo scusa. Il fatto è che la causa, come lei stesso si è espresso, è abbastanza importante. E secondo me è necessario intervenire con energia molto maggiore di quanto si è fatto finora». «La capisco», disse l'avvocato. «Lei è impaziente». «Non sono impaziente», disse K, un po' irritato, e non badò più tanto alle parole. «In occasione della mia prima visita, quando venni qui con lo zio, avrà notato che non mi importava molto del processo. Se non mi veniva ricordato, per così dire, con la forza, lo dimenticavo del tutto. Ma lo zio insistette che le affidassi il mio mandato, e io lo feci, per fargli piacere. E a questo punto mi sarei dovuto aspettare che il processo mi fosse ancora più leggero di prima, perché uno affida un mandato all'avvocato per scaricarsi un po' del peso del processo. Invece successe il contrario. Mai ebbi tante preoccupazioni per il processo come dal momento in cui lei mi rappresenta. Finché fui solo, non presi nessuna iniziativa nella mia causa, ma non me ne accorgevo. Adesso invece avevo un rappresentante, tutto era predisposto perché accadesse qualche cosa, di continuo, sempre più teso, aspettavo il suo intervento, ma questo non ci fu. Lei mi dette, è vero, molte notizie sul tribunale, che altrimenti non avrei forse avuto da nessun altro. Ma ora che il processo mi stringe in segreto sempre più da presso, questo non può più bastarmi». Thank you. K aveva allontanato la seggiola da sé e stava dritto sulla persona, le mani nelle tasche della giacca. «Da un certo punto in avanti del lavoro», disse l'avvocato con voce bassa e tranquilla, «non succede più nulla di veramente nuovo. Quanti clienti in simili fasi del processo mi sono stati davanti simili a lei, parlando in maniera simile?» «Allora», disse K, «tutti quei clienti simili avevano ragione quanto me. Il fatto non mi smentisce.» «Non volevo smentirla», disse l'avvocato. «Volevo solo aggiungere che da lei mi aspettavo più giudizio che dagli altri, specie perché le ho permesso di guardare nella macchina della giustizia e nella mia attività più addentro di quanto faccia di solito con altri clienti. E adesso devo vedere che lei, nonostante tutto, non ha abbastanza fiducia in me. Ma lei non mi rende facili le cose.» Come l'avvocato si umiliava davanti a K, senza nessun riguardo per l'onore professionale, che proprio su questo punto è sensibilissimo. E perché faceva questo? Aveva l'aria di essere un avvocato molto occupato, e inoltre una persona ricca. In sé per sé non poteva importargli molto né il mancato guadagno né la perdita di un cliente. Per giunta non stava bene, e avrebbe dovuto pensare lui stesso a togliersi un po' di lavoro. E invece teneva K così stretto. Era una simpatia personale per lo zio, oppure considerava davvero il processo di K tanto straordinario, sperando di distinguersi agli occhi di K? Oppure, questa possibilità non si poteva escludere mai, a quelli degli amici in tribunale. Dall'aspetto non lasciava trasparire nulla, sebbene K lo esaminasse senza nessun riguardo. Si sarebbe quasi potuto credere che, con espressione volutamente impassibile, attendesse l'effetto delle sue parole. Ma senza dubbio interpretò il silenzio di K in senso troppo favorevole a sé, perché continuò: «Avrà notato che ho un grande studio, ma non ho aiuti. Prima era diverso, ci fu un tempo in cui lavoravano per me alcuni giovani giuristi. Oggi lavoro solo. Ciò dipende in parte dal cambiamento del mio lavoro, in quanto mi sono limitato sempre più a pratiche simili alla sua, in parte dalla conoscenza sempre più approfondita che ho acquisito di tali pratiche. Ho constatato che non posso affidare a nessuno questo lavoro, se non voglio macchiarmi di una colpa verso i miei clienti e verso il compito che mi sono assunto. Ma la decisione di svolgere da solo tutto il lavoro ha avuto le conseguenze che c'erano da aspettarsi. Ho dovuto rifiutare quasi tutte le richieste di patrocinio per accettare soltanto quelle che mi interessavano particolarmente. Cosa vuole? Ci sono abbastanza disgraziati persino qui, a portata di mano, pronti a buttarsi su ogni osso che getto via. E inoltre mi sono ammalato per eccesso di lavoro. Malgrado ciò, tuttavia, non mi pento della mia decisione. Forse avrei dovuto rifiutare più patrocini di quanto ho fatto, ma che dovessi dedicarmi con tutte le forze ai processi accettati, Su questo punto i fatti mi hanno dato ragione e sono stato premiato dai risultati. Una volta ho trovato benissimo espressa in uno scritto la differenza tra il patrocinio in cause comuni e il patrocinio in queste altre cause. Il passo diceva: l'avvocato porta il suo cliente legato ad un filo sino alla sentenza, ma l'altro solleva il cliente addirittura sulle spalle, portandolo senza mai scaricarlo fino alla sentenza e oltre. È così? D'altra parte non era del tutto esatto quando dicevo che non mi pento mai di questo gran lavoro. Allorché, come nel suo caso, esso viene completamente disconosciuto, allora, ma solo allora, mi viene quasi fatto di pentirmene. Questi discorsi impazientirono K più che convincerlo. Nel tono dell'avvocato credette di sentire in un certo qual modo quello che lo aspettava. Se avesse ceduto sarebbero ricominciati gli incoraggiamenti, gli accenni al progredire della memoria, al migliore umore dei funzionari del tribunale, ma anche alle grandi difficoltà che si opponevano al lavoro. Insomma, sarebbe stato tirato fuori tutto quello che K sapeva fino alla nausea, per illuderlo di nuovo con vaghe speranze e per tormentarlo con vaghe minacce. Bisognava impedirlo una volta per sempre, perciò disse: «Che cosa pensa di fare nella mia causa, se conserva il mandato?» L'avvocato accettò persino questa domanda offensiva e rispose: intendo continuare in quello che ho già intrapreso per lei. Lo sapevo, disse K. Adesso ogni altra parola è superflua. Farò ancora un tentativo, disse l'avvocato, come se quello che indisponeva K accadesse a lui e non a K. Suppongo infatti che lei sia stato indotto non solo al giudizio errato sulla mia assistenza legale, ma anche al suo comportamento in generale, dal fatto che, benché imputato, sia stato trattato troppo bene, ovvero, con espressione più esatta, trattato con negligenza, con apparente negligenza. Anche questo ha la sua ragione. Spesso è meglio essere in catene che liberi, ma io vorrei mostrarle come vengono trattati altri imputati. Forse potrebbe imparare qualche cosa. Adesso farò venire Block. Apra la porta e sieda qui, accanto al comodino. Volentieri, disse K facendo quello che l'avvocato aveva chiesto. Era sempre disposto ad imparare. Ma per mettersi al sicuro in ogni caso, chiese ancora. Lei tuttavia ha preso atto che le ritiro il mio mandato? Sì, disse l'avvocato. Ma ancora oggi può revocare la sua decisione. Si riadagiò sul letto, tirò il piumino fino al mento e si voltò verso il muro. Poi suonò. Leni apparve quasi contemporaneamente al segnale del campanello. Con rapide occhiate cercò di capire quanto era accaduto. Che K sedesse tranquillo accanto al letto dell'avvocato parve rassicurarla. Sorridente, fece un cenno con il capo verso K che la fissava. «Porta Block!» disse l'avvocato. Ma invece di andarlo a prendere, lei oltrepassò la soglia e gridò. «Block! Dall'avvocato!» Quindi scivolò dietro la seggiola di K, forse perché l'avvocato rimaneva voltato verso il muro e non si curava di nulla. Da quel momento cominciò a disturbarlo, chinandosi sopra la spalliera, passandogli le mani fra i capelli e accarezzandogli le guance, ma con molta tenerezza e cautela. Alla fine K cercò di impedirglielo, afferrandole una mano, che lei gli abbandonò dopo qualche resistenza. Al richiamo, Block era subito arrivato, ma si fermò davanti alla porta e parve riflettere se dovesse entrare. Le sopracciglia alzate, la testa chinata, sembrava aspettare che l'ordine di andare dall'avvocato si ripetesse. K avrebbe potuto incoraggiarlo ad entrare, ma si era proposto di rompere definitivamente non solo con l'avvocato, ma con tutto quello che era lì nell'appartamento. Quindi non si mosse. Anche Leni taceva. Block notò che nessuno, almeno, lo scacciava, ed entrò in punta di piedi, il viso teso, le mani contratte dietro il dorso. La porta l'aveva lasciata aperta per un'eventuale ritirata. Il suo sguardo era rivolto non verso K, ma verso l'alto piumino sotto il quale l'avvocato che si era spinto fin contro il muro era ormai invisibile. In quel momento si sentì però la sua voce. «C'è Block?» chiese. La domanda parve dare a Block, che già era avanzato di un bel tratto, un colpo nel petto e poi uno sulle spalle. Barcollò, si arrestò piegato in due e disse «Agli ordini!» «Cosa vuoi?» chiese l'avvocato. «Capiti male a proposito!» «Non sono stato chiamato?» chiese Block più a se stesso che all'avvocato, alzando le mani a proteggersi, ed era pronto alla fuga. «Sei stato chiamato, e tuttavia capiti male a proposito?» disse l'avvocato. E dopo una pausa soggiunse. «Tu capiti sempre male a proposito!» Thank you.